Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo nel 2019 ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con l'autore Antonio Nobili per parlare dello spettacolo Dio arriverà all'alba, che sarà a Roma al Teatro 2 dal 20 al 24 febbraio 2019. Antonio, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Presentiamo questo lavoro, raccontiamolo. Sì, questo lavoro nasce da una profonda attività di ricerca che io svolgo da tempo su quelli che sono i gusti contemporanei della platea. E da una ventina d'anni si è sviluppato un gusto verso quelle che sono le vite degli altri. Più che sviluppato, si è riacceso. Da ciò il mio orientamento verso la scrittura di testi biografici, ai quali cerco sempre di fondere quella che è la mia caratteristica di scrittura, cioè la poetica. Da qui le biografie di Ungaretti, di Oscar Wilde, fino ad arrivare quest'anno ad Alda Merini. Un po' per un motivo editoriale, in quanto la cosa mi è stata chiesta, un po' per una passione personale che io ho sviluppato verso questo personaggio negli anni. Nel decennale quindi trovo l'occasione di mettere a frutto questa passione che ho, questo incontro della mia ricerca in questo testo che poi arriverà all'alba. È un personaggio molto amato per quanto riguarda cinema e teatro. Ecco, quali sono gli aspetti di questa artista che apprezzi maggiormente? Guarda, ti dirò, inizialmente mi sono un po' scontrato, poiché io vengo da un classicismo che prevede il verso in endecasillabo, la passione per la parola arcaica. Alda Merini invece era estremamente moderna, estremamente contemporanea, estremamente graffiante in quella che è stata tutta la sua produzione artistica, fino a farmi innamorare di questo nuovo genere che all'inizio per me forse non era nemmeno troppo poesia, invece poi quando sono entrato nei vari significati che ogni parola aveva mi sono perduto in questo amore nato verso una figura che viaggia attraverso le varie forme d'arte, un personaggio televisivo importantissimo negli anni grazie a Maurizio Costanzo e al Maurizio Costanzo Show, una scrittrice e saggista altrettanto importante, fino a poi la poetessa che tutti conosciamo, che oggi è la più cercata del web e la più venduta nelle librerie. Antonio, come è strutturato lo spettacolo? Lo spettacolo è il racconto da me immaginato della vita di Alda Merini nell'arco di quelli che sono gli ultimi 10 anni. Una vita fatta vissuta all'interno di una casa popolare malmessa, con la muffa sulle pareti, le crepe sul soffitto. Una vita molto semplice, vissuta fumando sigarette, bevendo Coca-Cola. Una vita spartana che è più vicina a quella di Bukowski, certo, che è quella di alcuni poeti che possiamo immaginare. Questa vita è quella che viene raccontata sul palcoscenico, in quanto frutto di quella ricerca che dicevo prima c'è soprattutto la scoperta che spesso la poesia non vive in ambienti elitari, ma vive in condizioni di povertà, in condizioni umili, in condizioni che potremmo definire, tra virgolette, di nudità. In quella nudità di questa poetessa noi entreremo con lo spettacolo, e chi ha la fortuna di vederlo a Roma, dove era dal 20 al 24 al Teatro 2. Come hai affrontato la questione del portare la poesia in scena? Ho portato la poesia in scena facendo vedere al pubblico, come ti dicevo, che vive nelle piccole cose. Spesso noi ignoriamo la grande poesia che vive nei piccoli gesti, nelle piccole azioni. Ad esempio, c'è tantissima poesia nel ricordare, nel mio caso, il

la festivale teatrale, sembra proprio una cosa molto groccia, insomma, sì, sì. Minacciosa. Tranquillità, insomma, senza grossi, no? Invece no, uno si crea questo atteggiamento un po' eccessivo, ecco. Allora, dici un po' cosa ci attende. Ma guarda, la cosa che stiamo attendendo tutti è che finalmente tirino fuori il direttore del Teatro di Roma. Ok. Che è una cosa che da un po' di tempo manca e davvero siamo un po' fuori quei tempi, perché insomma non ha davvero senso l'attesa così, così lunga di qualcosa del genere. Quindi stiamo cercando di capire chi sarà questo nuovo direttore, vediamo un po', non diamo alcuna anticipazione, però insomma, pare che le cose siano finalmente vicine alla soluzione. Vediamo un po', potrebbe aver trovato una quadra. Comunque intanto le cose vanno avanti e andiamo avanti anche noi, andiamo avanti. Questa settimana non ci sono grossi debutti, onestamente, si mantiene, diciamo, ciò che abbiamo visto la scorsa settimana con qualche replica in più, insomma. Allora, intanto andiamo al Teatro dei Servi, che quest'anno si sta un po' aprendo, diciamo, un teatro un po' diverso, non so se questo è il caso, ma insomma è tanto una piacere ricordare, con Center 3.0, scritto diretto da Roberto D'Alessandro. Credo sia un po', diciamo, la vecchia idea del Teatro dei Servi, però vediamo un po', magari scopriamo qualcosa di buono anche in questo tipo di commedia. 22 marzo, febbraio, 10 marzo, per questo call center 3.0, chi di voi non ha mai ricevuto una telefonata da un call center? Una delle tante giornate in cui accade una cosa del genere, però ci sarà un coinvolgimento, qualcosa che insomma tra la persona chiamata al call center e il call center stesso decreterà, diciamo, una sorta di particolare situazione. Andiamo ancora, perché al Teatro Marconi c'è un viaggio in Italia cantando le nostre radici. 21 giovani artisti in scena con la regia di Massimo Venturiello portano questo lavoro. Ci sarà anche Tosca ospite speciale nella prima serata, quindi un viaggio in Italia attraverso vari territori d'Italia, toccati da un itinerario artistico, appunto, che raccolga insomma i colori, i profumi, le voci della musica e del teatro popolare di tutte queste zone. Quindi 24 febbraio e io anche la tosse al Teatro Marconi per questo viaggio in Italia. Andiamo anche allo spazio 18B, dove Aldo Cirri presenta Pagine strappate con la regia di Masaria Colucci. Masaria che è anche in scena con Rosario Carfone e Vincenzo Longobardi. Si tratta di un testo di Aldo Cirri che racconta una delicata situazione familiare che si allarga in uno spazio scenico piuttosto intimo in realtà. Un medico e un assistente sociale fanno la sua visita ad una malata e al suo figlio. Nel rapporto, diciamo, si parlerà di malattia, si parlerà anche poi di percezione del calore umano e della professionalizzazione, la direi così, dell'assistenza, no? E questo è un po' il grande tema della malattia in genere. 21-24 febbraio al Teatro Spazio 18B per Pagine strappate di Aldo Cirri. Poi procediamo, perché al Teatro Bascello è l'occasione per vedere fino al 10 marzo, tra l'altro già dal 16 febbraio, Il libro della giungla per i più piccoli, dal libro appunto di Rudyard Kipling, questo lavoro della Compagnia dei Giovani del Teatro Bascello, che appunto presenta per i più piccoli questo viaggio all'interno della giungla, Il libro della giungla, storico titolo che insomma tutti quanti abbiamo letto nella nostra infanzia e adolescenza. Ma alla Sala Grande del Teatro Bascello è la volta di Delirio a due, Ionesco, con la regia di Fabio Galadini e lui stesso in scena insieme a Valentina Morini, appunto due i personaggi. Fino al 24 febbraio saranno in scena con questo io non so se sopravviverò fino al 24 febbraio, per vedere, ma insomma una coppia si logora nel delirio, nell'abitudine quotidiana. Sono chiusi in una sorta di solipsismo del privato, no? Di questo vivere insieme. Mentre fuori l'umanità marcia inesorabile verso l'autodistruzione. Questo è ciò che vedremo nel Delirio 2 di Ionesco con Fabio Galadini e Valentina Morini fino al 24 febbraio al Teatro Bascello. Orsù. Allora, cos'altro abbiamo? Ti dico che sabato mattina, che è un 23 febbraio, a Torino Corsini di Villa Doria Panfili, ci sarà la presentazione di un film di Chiara Crupi, La vita cronica dell'Odin Theatret, su l'Odin Theatret a Roma, che appunto l'Odin è in questa settimana con l'Albero Teatro Vascello, ed è una avventura particolare quella dell'Odin. Noi oggi con Teatro e Critica siamo usciti proprio con un articolo dedicato, perché è appunto una compagnia di iniziativa italiana, ma fondata in Danimarca, dove appunto c'è la sede, dove Eugenio Barba, suo fondatore, ha poi creato un linguaggio che poi è diventato modello di tantissimi altri. Quindi alle ore 10.30 del 23 febbraio l'Odin Theatret a Roma, che è una rassegna che comprendeva appunto anche la messa in scena, e ci sarà la proiezione del film, il dibattito con la regista, e interviene il professor Franco Ruffini, quindi giovedì 23 febbraio. Poi qualche altra cosa, direi che proprio per l'occasione questa settimana ci saranno degli incontri, delle riflessioni, un seminario ancora dedicato all'Odin Theatret anche a Largo Studio. Fino al 21 febbraio ci sarà questo seminario condotto da Elena Floris, che si basa sul lavoro del Ponte dei Venti, gruppo di ricerca teatrale appunto guidato da un'attrice proprio dell'Odin dal 1964. Quindi, insomma, qualcosa di storico andremo a vedere e a partecipare a Largo Studio in questa settimana. Ti porto ancora al teatro all'Off-Off Theater appunto, dove torna Ettore Pedrolini, non lui perché insomma è piuttosto morto, ma Dario Ballantini, che porta in scena Ettore Pedrolini in questo lavoro appunto molto poco autoreferenziale, dal titolo Ballantini e Pedrolini, dalle opere di Ettore Pedrolini appunto, con l'accompagnamento alla fisarmonica di Marcello Fiorini, un viaggio attraverso l'opera del grande artista che insomma è d'origine del grande comico romano che dalla fine dell'Ottocento ha creato dei personaggi rimasti poi nella storia della nostra idea di rappresentazione. Da questa sera fino al 24 di febbraio al teatro Off-Off Theater. Che cos'altro? Allora, dunque, mentre l'albero, io forse ho dimenticato di dirlo, ma l'albero dell'Odin Theatret è ancora in scena al Teatro Vascello, è nell'altra sala, quindi da non perdere, insomma, questa settimana clou dell'arrivo a Roma dell'Odin Theatret. Cosa dirti? Che ancora continua al Teatro Argentina il lavoro di Carlo Cecchi fino al 24 febbraio per vedere l'Enrico IV, la terza volta che si occupa di Pirandello dopo L'Uomo, la Bestia e la Virtù, i sei personaggi del 2001. Carlo Cecchi si misura con questo grande tema posto da Pirandello, questo grande classico che si occupa del tema della maschera, dell'identità, della follia, del rapporto tra finzione e realtà. Questa insomma, è una pietra miliare del teatro pirandelliano. Ma ancora ci mancano un po' di cose, perché ti vado a ricordare come al Teatro Biblioteca Quarticciolo 21 e 22 febbraio ci sarà Proprietà e Atto, Will Ino in prima regionale con Francesco Mandelli e la regia di Leonardo Livi. Questo lavoro è appunto diretto dal vincitore del Biennale College 2017, quindi insomma assolutamente da andare a verificare. È un monologo interpretato da un uomo che viene da qualche parte imprecisato e che è arrivato qui, nei suoi esileranti e strazianti tentativi di comprendere se stesso e il mondo che gli è rimasto, o di comprendere noi il mondo in cui è arrivato, andremo a vedere una luce necessaria sulla nostra esperienza collettiva. Quindi Guilino ci porta all'interno della nostra esperienza 21-22 febbraio a Teatro Biblioteca Quarticciolo. Ancora settimana con un bel po' di cose. Al Teatro di Roma andremo a vedere ben due cose. Al Teatro India, l'uno è sempre domenica, Controcanto Collettivo e la compagnia, ideato in diretto il lavoro da Clara Sancricca, un lavoro sul lavoro, appunto, sul tempo, l'energia, i sogni che il lavoro quotidianamente va a mangiare, a consumare, a sottrarre. Ci sono 6 attori sul palco e 6 sedie, e insieme a loro andremo a conoscere le loro storie. Quindi fino al 24 febbraio, 21-24 febbraio, al Teatro E India, per Clara Sancricca, che porta in scena sempre domenica. Ma non è il solo spettacolo in scena al Teatro India, perché questa è anche la settimana in cui andremo a vedere Buccidia Teatro, la compagnia Bucceria Teatro, che fino al 24 febbraio, da questa sera fino al 24 febbraio, sarà in scena con Immacolata Concezione, uno spettacolo che vinse Teatri del Sacro, scritto e diretto da Gioele Anastasi, e racconta di Concetta, con una ragazza silenziosa e innocente, barattata in cambio di una capra gravida dal padre caduto in disgrazia e che finisce nelle mani di Donna Anna, che la porta nel bordello del paese. Quindi una storia tragica, difficile, terribile alle spalle, e Immacolata Concezione dal 19 questa sera al 24 febbraio al Teatro India. Mi rimangono un paio di teatri da ricordarti. Il primo di cui parlerei è appunto il Teatro Vascello, Vascello abbiamo parlato, perdonami, il Teatro Eliseo, dove andremo a vedere sicuramente fino al 27 febbraio la storia di Paolina, ovvero l'altra Leopardi che avrete, Paolina, la sorella di Giacomo Leopardi, l'Eliseo Off, nella balconata della seconda balconata del foyer. Andremo a vedere questo lavoro in orari un po' particolari, insomma, il mercoledì, domenica alle 20, venerdì alle 18, che altri orari, insomma, da vedere sul sito del Teatro Vascello, che è la storia della meno nota Leopardi della famiglia, ovvero sia Paolina, la sorella a cui anche lo stesso Giacomo scrisse molte lettere. Poi andiamo a scoprire che da questa sera fino al 10 di marzo ci sarà Giorgio Di Rabassi insieme a Carlotta Proietti con la regia di Giancarlo Pares, per un lavoro firmato dal grande vecchio del cinema romano, soprattutto il nome dello storico romano, la commedia di Gaetanaccio di Luigi Magni, un capolavoro appunto che 40 anni fa fu interpretato anche da Gigi Proietti. Un lavoro di Gaetanaccio, un burattinaio che parisce la fame perché il potere vieta ogni tipo di rappresentazione teatrale. Vengono soppresse tutte quelle attività culturali le quali, che anche quando vada bene, non servono a niente. Ed ecco, come spesso accade, che Luigi Magni ci porta all'interno dell'attualità, perché insomma oggi la cultura è in condizioni piuttosto precarie, e questo in qualche modo ci dice la messa in scena attuale di Giancarlo Fares, che sarà in scena appunto fino al 10 marzo al Teatro Eliseo da questa sera. Mentre invece il 21 sarà l'occasione per, ancora al Teatro Vascello, ma la sala grande, ovviamente quello era il piccolo Eliseo, per apprezzare l'ennesimo debutto, l'ennesima volta a Roma, per uno spettacolo che non smette di fare le proprie repliche, Shakespeare di Napoli, fino al 3 marzo con Claudio Di Palma e Ciro Damiano, ovviamente scritto e diretto da Ruggero Cappuccio, la lingua shakespeariana assimilata alla grande cultura del barocco napoletano. Questo è quello che ha fatto Ruggero Cappuccio con questo, che è una sorta di capolavoro ormai del contemporaneo, che andremo a vedere fino al 3 marzo, dal 21 febbraio, al Teatro Eliseo. L'ultimo è quello di una moderna Cenerentola, che andremo a vedere al Teatro Studio 1, quindi un pochino in periferia, con la regia di Stefano Scandaletti, che appunto vedremo dal 21 al 24 febbraio, un monologo brillante, ironico su appunto questa moderna Cenerentola. Ma assolutamente da non perdere l'arrivo a Roma della compagnia, della storica compagnia, che è ancora un'altra storica compagnia, che è Fanny Alexander, perché dal 20 al 24 febbraio al Teatro Torlonia presenterà questo lavoro dedicato al... è un progetto in realtà più grande, dedicato al lavoro letterario di Elena Ferrante, al di là delle grandi polemiche che coinvolgono insomma la scrittrice o chissà cosa, mai conosciuta e mai vista dall'intero mondo letterario, ma che comunque pare scriva molto bene, quindi dall'amica geniale di Elena Ferrante, questo Storia di un'amicizia, che sarà in scena dal 20 al 24 febbraio al Teatro Torlonia, e poi girerà un pochino per l'Italia. Quindi questo, Federico, direi che è tutto. Ciao Simone, alla prossima! Ciao a tutti! Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.